droghe. Grazie a tutti e a tutti di essere qui a sostenere questo progetto libero del 1977, che è Radio Onda Rossa. Un ringraziamento ai fonici per la pazienza, la loro, eh. Bella Elfo, bella. Vabbè, un'iniziativa nata così, con la condivisione di tutti e tutti. Grazie a Fantasma, no, che è un figo pazzesco. Dai. E a volte basta poco. E da Milani, Kalashnikov, dai. Quegli uomini e quelle donne che sventolano bandiere che non hanno i colori dei propri sogni. Bandiere da bruciare! Soffiare da terre lontane, portare qualche alba con te.

vento ai segni sulla corteccia a indicare il dirupo strapiombo nel cielo e sì. Così ti abbracciai sotto un cielo di fango mentre le bombe cadevano ai soldati. E così ti abbracciai sotto un cielo di fango mentre le bombe cadevano ai soldati. Ti avrebbero presto trovato. E così ti abbracciai sotto un cielo di fango mentre le bombe cadevano. Grazie mille, davvero.

fuoco, gridano le ruote sul pavimento del centro commerciale. Sogno stoppa una birra coi denti e parla la lingua del fuoco. Rap del più bello. Grazie. Grazie. Dankeschön. Tschüss. Grazie mille, davvero. Il nostro cuore nordico si sta sciogliendo. Oh. Non è per cattiveria, ma il nostro batterista non sta bene, per cui adesso ci beviamo una cosa tutti insieme e ci godiamo il concerto della Furia, dai.